dopo insomma io no, perché sennò rubiamo troppo spazio loro, no? Come volete, io mentalmente ho già cancellato uno dei due interventi, quello sulla sostenibilità condivisa credo che non ci stia, però la vita non finisce domani, quindi ci saranno altre occasioni. Però mi farebbe piacere almeno l'altro intervento farlo. Poi non so se Terry hai un'ispirazione per riuscire a presentare la sostenibilità condivisa in pochi minuti. Io rinuncio. Io rinuncio. Però invece vi vorrei dire una cosa per portare la nostra esperienza su un'area che è quella su cui avete scritto di più, che è come stare insieme. Io ho la sensazione che più che essere sfidati nel piantare i cipollotti o le altre cose tecniche che farete, e le farete da Dio, la vostra grossa scommessa sia come continuare a stare insieme in maniera piacevole, gratificante, efficace, eccetera, eccetera. Allora, prendo in prestito uno schemino che al nostro interno, secondo me, è stato molto utile, di una formatore che si chiama Tecchio. Non so se quando avete fatto il percorso con Delfino e Francesca l'avete già visto, ma secondo me è una cosa che richiede pochissimo impegno e apre la mente per evitare di perdere tanto di quel tempo nelle riunioni che... E il titolo potrebbe essere Accordo nel disaccordo, perché secondo me se non riuscite a trovare degli accordi nel disaccordo non andate molto lontano. Accordo nel disaccordo è un'arte, accordo nel disaccordo, perché è impossibile che siate d'accordo su tutto. Ok, accordo nel disaccordo. Per avere qualche possibilità di farcela, potrebbe essere interessante riuscire a capire dove siete rispetto a questo tema. E questo Tecchio ha fatto uno schemino semplice, che mette assieme due variabili. Una si chiama qual è il vostro livello di fiducia tra voi, e allora mettiamo qua fiducia. Mettiamo fiducia. Può essere bassa, e la mettiamo qua, la fiducia bassa, o fiducia alta. È una prima variabile, molto importante capirlo. Nelle domande ve l'abbiamo regalata. Non so se avete una certa percezione di quanto la fiducia possa permettere di fare miracoli. E la sfiducia sega le gambe a qualunque progetto di qualità pensiate di realizzare. Quindi la fiducia è un elemento, e lo mettiamo qua, fiducia alta, fiducia bassa. Poi c'è l'altro elemento a cui invece diamo sempre tantissima importanza, che è la condivisione dei contenuti. Ha una sua rilevanza, perché se uno vuol fare una cosa, uno vuol fare un'altra, è bene saperlo. Mettiamolo qua, condivisione dei contenuti. Può essere bassa, quindi boh, insomma non siamo proprio d'accordo se fare o no l'accordo col comune di Firenze, metti. Qualcuno dice di sì, qualcuno dice di no, quindi la condivisione dei contenuti è bassa. Oppure no, siamo tutti d'accordo, abbiamo fatto un progettino che è uno spettacolo, sigliamolo, quindi alta. Ecco, bisogna capire dove ci si trova, perché altrimenti si perde tanto di quel tempo. Allora, iniziamo da qua. Quest'area qui è un'area un pochino insidiosa, cioè... Guarda, non c'è una grande fiducia fra noi, e non siamo neanche tanto d'accordo su come andare avanti, Quest'area qua si chiama un'area, non che non siamo d'accordo, un'area di dissenso, e bisogna saperla leggere, perché se pensiamo semplicemente di non essere d'accordo sull'accordo che vogliamo fare col comune, non vediamo le cose. Questa si chiama area di dissenso. Di solito, quando siamo qui, perdiamo un sacco di tempo a parlare dei contenuti. Faticosissimo. Ma guardiamo se invece ci sono delle condizioni che ci permettono di creare relazioni di fiducia. Altrimenti, in una situazione di dissenso, andiamo avanti e arriviamo a sfinirci. Per logoramento. Se siamo qui, forse non dobbiamo fare tutte le sere mezzanotte a parlare di questo, proviamo a parlare anche di questo, bisogna un po' lavorare su questo. E questa è importante riconoscerla, però potremmo anche essere qui, cioè la fiducia fra noi non è proprio al top, però siamo d'accordo sulle cose da fare, abbiamo una buona visione rispetto alle cose da fare. Non possiamo dire che va tutto bene, siamo d'accordo. Non è così. Si chiama quest'area qua un'area, diciamo, di accordo tecnico. Un po' quello che fanno i partiti. Tu non mi piaci per niente, ma vogliamo andare là e allora ci accordiamo per andare là. Tu non mi piaci, ma mi sei utile e quindi andiamo in quella direzione. Adesso sto un po' brutalizzando, eh? Qua siamo in un accordo tecnico. Facciamo un patto. Tanti patti tecnici che funzionano portano pian piano ad avere anche un po' più di fiducia. Abbiamo fatto un accordo tecnico, non l'hai tradito, avevamo detto piantiamo i cipollotti, io non voglio piantare i cipollotti, però tu hai mantenuto questo accordo, pian pianino ci lavoriamo, però sappiamo che siamo qui. Questo va presidiato, perché? Perché non c'è un rapporto di fiducia, capite? Quest'area qui, quanto è importante leggerla e gestirla in maniera coerente. Un fornitore con cui non ho una grande... Un gestore telefonico. I gestori telefonici sono qui. Cioè, ci rompono gli zebedei dalla mattina alla sera, cambiano sempre i contratti. C'è qualcuno che lavora come gestore telefonico? Sono qui assillanti, eccetera, eccetera, eccetera. Accordo tecnico, non si va oltre. Bene. Ma anche nei nostri gruppi possiamo fare anche tanti accordi tecnici, in certe situazioni è saggio fare un accordo tecnico, va presidiato però, perché se tutto va bene, meglio. Proviamo ad andare qua su, oppure in certi gruppi c'è almeno il mito potentissimo, che fra noi c'è grande fiducia e fra noi siamo anche d'accordo su dove andare, e qua si sviluppa il mito dell'unanimità. Cioè noi siamo tutti d'accordo, alla max 6 siamo tutti d'accordo e ci vogliamo tutti bene, ok? E c'è questo mito che però è da guardare bene, perché di solito nasconde degli aspetti da presidiare, ovvero il fatto che dentro a questi gruppi che hanno questo mito, e tendenzialmente noi siamo un po' così affascinati da questo mito, non è così semplice che noi riusciamo a condividere realmente ciò che pensiamo, perché se tutti dentro Maxei davanti a quella proposta lì sono tutti d'accordo, ma cosa faccio? Rompo le scatole io a dire che mai io veramente? Quindi non è così semplice sentirsi accolti se si è diversi, oppure no, però diciamo che l'unanimità è una situazione che può capitare nella realtà, può anche essere un pochettino, nascondere altro. L'area più interessante è questa, dove immagino voi diventerete dei campioni se già non lo siete. Ovvero, potete tranquillamente non essere d'accordo esattamente sulle cose da fare, ma a fronte del fatto che avete lavorato bene, sul fatto che fra voi ci sia un buon livello di fiducia, voi potete lavorare per la creazione del consenso. Il consenso non vuol mica dire che siamo tutti d'accordo, eh? Io nella MAX sono d'accordo relativamente sulle cose che facciamo, su alcune sono abbastanza d'accordo, su altre sono meno d'accordo, ma il consenso vuol dire trovare a essere capaci di fare degli accordi, non di prendere delle decisioni. Essere capaci di fare degli accordi dove ci coinvolgiamo personalmente, riusciamo a gestire i rischi che vediamo, le paure che abbiamo senza metterle sotto al tappeto, e troviamo delle modalità che valorizzino il fatto che la nostra fiducia, il rapporto di fiducia che abbiamo creato, ci permette di attraversare anche situazioni in cui non siamo tutti d'accordo su quella roba lì. Come si fa? Immagino che avrete già appreso tante modalità. Non si riesce a farlo se si sta qui 8 ore a parlare, perché non è quello il meccanismo. Ci sono cose molto più raffinate ed efficaci. Si chiamano accordi di base, si chiamano Insomma, ci sono tante modalità. L'importante è non pensare che si arriva a essere d'accordo perché ci si travolge di parole, parlare. Quello è arrivare a consenso. No, ci sono altri strumenti che sono da apprendere. Bisogna imparare a creare accordo e disaccordo. Io mi fermerei qua. Com'è? C'è una flash su questa cosa qua, che sui bigliettini l'ho vista trasparire, diciamo così. Una cosa che mi veniva in mente dai bigliettini che ho visto trasparire, questa roba qua è fondamentale, no? Quest'area qua, lavorare su questa. E perdere, lo dividiamo prima della pausa, no? Cioè lavorare sulla fiducia è fondamentale, perché sennò rischiamo di... Se mi ammalo cosa succede? Oh, se ti ammalo, rilassati. Gli altri, è presente cosa c'è fuori? Quello che decidiamo qua molto probabilmente va bene comunque. Fuori c'è un uragano in arrivo e noi stiamo lì a mettere i puntini sulle i, a litigare un casino. Cioè, molto probabilmente quello che facciamo va bene, stiamo già pensando ad altro. Rilassiamoci, cioè, molto probabilmente non c'è bisogno sempre di mettere i puntini sulle i e sentirsi diversi dagli altri, ma se, cioè, guardiamo bene cosa c'è fuori. Quindi lavorare su questo, anche con i meccanismi, non so che sensazione avete avuto voi. Prima, quando abbiamo scritto i bigliettini e li abbiamo letti, qual è la sensazione che avete respirato? Cioè, io ho respirato la sensazione d'ascolto, no? Dove le cose emergono e se avessimo passato a parlare solo di contenuti, quelle cose lì non vengono fuori. Allora, lavoriamo un pochino più su far emergere le cose, i nostri bisogni, le nostre paure e aiutiamoci a rilassarci e a pensare che non ci andiamo a fracassare contro un muro. No? Però non è semplice, bisogna adottare degli strumenti che ci possono essere, però lavorare più su quelli che sui contenuti, secondo me i nostri gruppi sociali migliorano, perché non so che esperienza avete voi, io vedo che i nostri gruppi sociali non stanno bene dal punto di vista relazionale, quindi su questo bisogna prendere atto e darsi le possibilità di lavorare non solo sui contenuti. Questo così come riflessione, così di scambio, su cui penso sia importante. Io non vedo una gran salute e ce ne sarebbe invece tanto bisogno. E come si fa a lavorare su questo aspetto? Ci sono tante cose che si possono fare. Noi adesso, ad esempio, siamo dei grandi appassionati del metodo del consenso. Il metodo del consenso è una buona strada. Occorre un alto livello di motivazione. Perché ha delle premesse da condividere molto alte, è adatto solo per i gruppi che realmente vogliono condividere il potere, quindi bisogna accordarsi bene se questa è realmente la condizione di partenza. Ci sono, diciamo, tante modalità legate al metodo del consenso, che non è l'unica strada. Il metodo del consenso, se volete intanto farvi un'idea, prendete quel librettino della BRICS, facilitazione metodo del consenso. In una sera ve lo leggete, vi fate una panoramica di quello che può voler dire smettere di pensare che la maggioranza sia più saggia della minoranza. Di solito è esattamente il contrario. Forse la minoranza che è più saggia della maggioranza, e allora provare a utilizzare delle modalità fra noi dove non ci sia qualcuno che vince, qualcuno che perde, ma andiamo avanti insieme. E c'è da fare un grosso lavoro anche su di sé, perché se no pensi, cavolo, ho ragione, perché mai dovrei adesso stare qui a perdere tempo. No, volevo dire che Francesca Guidozzi, sì, insieme al team con lei, ci hanno fatto appunto ieri, poi verrà presentata l'assemblea il 26, una proposta di un programma di incontri per guidarci in questa transizione e in futuro, da qui a maggio, giugno, quindi un calendario molto ampio, che poi verrà, no, lo dico io perché è un'anticipazione, verrà detto in assemblea il 26, quindi appunto su tutto questo. Sicuramente quella scelta lì è una scelta strategica fondamentale. L'assemblea dovrà passare, però Luca, siccome avete sei minuti, sei minutini, magari se volete condividere un po' il percorso che state facendo, come l'avete impostato, il percorso che state facendo, come fare, su una prospettiva a lungo termine. che quella qui anche noi dobbiamo iniziare a pensare, abbiamo sempre guardato un po' a corto termine. Ok, una cosa diciamo in pochi minuti. L'idea è quella di dotarsi di uno strumento che si chiama bilancio preventivo pluriennale per smettere di fare le nostre previsioni su una base troppo ravvicinata di un anno, ma di svilupparle su 5 anni. Per arrivare lì ci sono tanti passaggi che stiamo facendo, per cui abbiamo iniziato a parlare dello strumento di bilancio preventivo adesso, che è al 5º incontro di 7. Perché? Perché prima abbiamo proposto di andare a rivisitare altri pilastri su cui si appoggia uno strumento come il bilancio preventivo pluriennale. Il primo è stato quello di ridefinire, ricondividere l'orizzonte verso cui andiamo con modalità inclusive, proprio perché le nostre diversità non sono un ostacolo. E abbiamo fatto un lavoro che adesso non sto a entrare troppo nel dettaglio, però che anziché percepire qualcosa che va oltre quello che io penso, lo vado a cercare e guardo che sia armonico con la mia posizione. Quindi uno, lo strumento è ridefiniamo l'orizzonte verso cui andiamo, che vogliamo realizzare da qui a 5 anni. Come vogliamo essere tra 5 anni? Cominciamo a raccontarcelo, poi abbiamo usato lo strumento del sogno, tutto quello bene. E la seconda cosa è, benissimo, se non hai una motivazione che ti spinge ad agire, non vai da nessuna parte, ma una volta che hai trovato la motivazione devi darti delle strategie e devi darti dei piani di azione. Quindi abbiamo messo in piedi un secondo strumento, una volta che abbiamo capito che vogliamo andare là, per definire che azioni fare, dare uno sviluppo nel tempo per vedere che i nostri piani siano realizzabili e non congestionare tutto nei primi 6 mesi e lasciare che la parte finale casomai sia vuota e gli impegni siano tutti concentrati. Quindi la seconda cosa è abbiamo creato un piano d'azione, secondo strumento. Il terzo è che dentro questa strategia complessiva dobbiamo dotarci di competenze e strumenti. Quindi competenze vuol dire che tutti dobbiamo avere le idee chiare rispetto alla differenza che c'è fra un'entrata e un ricavo. Se non sai che differenza c'è fra un'entrata e un ricavo, è un problema grossissimo. Come fai a pensare a una progettualità così grande e ti mancano i mattoncini proprio? Oppure, che differenza c'è fra avere equilibrio economico, avere equilibrio finanziario e avere equilibrio patrimoniale? Come facciamo a confrontarci e a definire delle strategie se non abbiamo neanche in comune dei concetti di base che ci permettono di dialogare? Poi posso dire che sono d'accordo o non sono d'accordo, ma almeno stiamo parlando la stessa lingua. Quindi questa è la terza questione su cui stiamo lavorando: alfabetizzazione contabile e bilancio, eccetera, eccetera, eccetera. Creazione di bilancio preventivo. La quarta, e non sono in ordine di tempo e neanche di importanza, è avere modalità trasformative, cioè come facciamo a stare insieme con tutte le nostre diversità? Quali sono le modalità che ci avvicinano? Qual è il modo di parlare che anziché creare distanza fra noi ci avvicina? Ecco, avere consapevolezza di tutto questo per riuscire a far funzionare bene le relazioni fra gli esseri umani. Questa è l'altra, il quarto elemento su cui stiamo lavorando. Questi quattro distribuiti in 7 incontri in 7 mesi o 6 mesi. In ballo c'è la consapevolezza, no? Perché bisogna uno strumento, a volte uno dice no, ma dopo devo stare, cioè avere una consapevolezza economica. Non vuol dire essere schiavi, perché poi dipende da te cosa, perché voglio dire, noi un meno davanti a un bilancio non è, noi siamo culturalmente, ci dicono che siamo in perdita, ma non vuol dire assolutamente niente, dipende da quello che vuoi fare, ci può anche stare un meno in bilancio. Dopo la consapevolezza, quella ti dà solo una consapevolezza, dopo la gestione ce la rimane a te, però la gestisci in maniera consapevole, non così ideologicamente tra virgolette, no? sono strumenti e come tutti gli strumenti poi vanno utilizzati cercando di utilizzarli a beneficio dei nostri obiettivi, non è che diventiamo schiavi di quegli strumenti.